un'esperienza che non giudichiamo positiva, è un'esperienza che ha insegnato molto, questo sì, ci ha cambiato, fatto vedere le cose con un'altra prospettiva e soprattutto a me dà un grande messaggio questo. Io vorrei che le generazioni future potessero vivere una città diversa da quella che è stata prima, ma che abbia qualche aspetto della città che ho potuto vivere io da ragazzo, che hanno potuto vivere loro, le comunità. Credo che da ogni sfortuna, voglio dire, possa nascere qualcosa di eccezionale, ecco. Quindi noi, oltretutto, adesso dico finalesi, dico emiliani, insomma, noi ci compiacciamo spesso, ci crediamo in noi stessi e io voglio continuare a farlo. Credo che Finale abbia un potenziale eccezionale, abbiamo un numero di volontari, di associazionismo, di estro importantissimo. Come amministrazioni, come istituzioni, va coltivato e va supportato. Bandarul Frulli è una magia, ma veramente, sono molto razionale in quelle cose lì, ma lì è successo qualcosa di magico, è esploso un fenomeno incredibile, con delle emozioni uniche e anche una qualità del tutto inaspettata dal punto di vista musicale.